noi è stato un gioco, un tridente di fuoco, una fiamma da incorniciare, un film in un quadro. Stanno chiudendo i bar, aprono le chiuse, il nostro fiume è arrivato al porto, finito il nostro rapporto. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua strada, resta come sei, anche sette, otto, vai. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua vita, resta come sei, anche se mi mancherai. Ti stanno aspettando al video, ti stanno correndo dietro, gli acrobati dei sentimenti, i tuoi uomini, i tuoi amanti. Sebbene duri poco, ti sferza con il fuoco. Sebbene io ti ho amato più di chiunque, questo vuoto. Ti stanno chiamando a raffica, rispondi ai loro richiami, ti vogliono ricordare a chi appartieni. Cammina e non voltarti, altrimenti mi troverai con le lacrime agli occhi, ma non è così che mi vedrai. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua strada, resta come sei, anche sette, otto, vai. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua vita, resta come sei, anche se mi mancherai. La terra sta tremando sotto ai nostri piedi, è giunto il momento di mettere un punto. Non avere dei rimpianti, perché non abbiamo perso, di certo neanche vinto, né perso il nostro tempo. Mettiti il vestito, quello che ti ho regalato, mette in luce il tuo corpo, il tuo sorriso, il tuo paradiso. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua strada, resta come sei, anche sette, otto, vai. Parti tesoro, parti, fai che dolce sia la tua vita, resta come sei, anche se mi mancherai, mi mancherai.